lo spunto da questo libro che sarà, perché io ho letto, che sarà presentato lunedì prossimo, Spaesati, e io devo dire che purtroppo non mi sono mai sentito spaesato a Bolzano. E, anzi, è una città dove sono arrivato il 1 ottobre del 1956. E l'anno scorso di questi giorni abbiamo festeggiato i 50 anni, e nella quale mi sono sempre trovato benissimo, non ho mai sentito disagio, anzi è una città che amo molto, che non cambierei con nessun'altra città al mondo, e certe volte mi sono chiesto perché, come mai ho avuto questo rapporto così con Bolzano. E così. Non bisogna mai parlare di se stessi che non è educato, però questa piccola cosa iniziale me la scuserete. E io sono venuto a Bolzano da nord e non da sud, perché io prima di venire a Bolzano mi trovavo a Monaco di Baviera, dove ho fatto la specializzazione in filologia classica. Quando ero a Monaco di Baviera, mi è arrivata la lettera del ministero in cui mi si chiedeva di scegliere la sede perché ero vincitore di concorso nelle scuole medie, e io dovetti da Monaco comunicare a Roma qual era la sede che sceglievo. Da Palermo a Bolzano a Aosta ne avevo centinaia da scegliere, ho scelto Bolzano. Ho scelto Bolzano perché io mi sentivo molto portato verso la cultura tedesca. A Monaco avevo avuto la fortuna di avere dei professori eccezionali e quindi volevo continuare questo rapporto. Quindi da Monaco la mia scelta è stata Bolzano. E non me ne sono mai pentito perché a Bolzano ho trovato veramente una città che mi ha dato molto. E quindi dall'amore per Bolzano è derivato il fatto di voler a un certo punto scrivere anche una guida, presentare questa città. E questa è l'edizione nuova, la prima era uscita nel 1992 e la traduzione tedesca nel 1993. Speriamo, volevo fare entro Natale la nuova edizione in lingua tedesca, ma devo ancora aspettare perché questo libro l'ho fatto tutto a spese mie. E finché non pareggio il bilancio, spero a Natale, dell'edizione italiana, non posso pensare a quella tedesca, come penso per Pasqua. Già la signora, la traduttrice, che è una signora di Vienna, ha iniziato a fare la traduzione. E non voglio prenderla troppo alle lunghe, abusare della vostra pazienza. Allora dirò un po' quali sono le linee di questo libro. Io prima di accingermi a questo lavoro ho cercato di vedere nelle altre città italiane come erano fatte le guide, e la città di riferimento per me più vicina era Verona. Sono andata a Verona in biblioteca, ho preso decine e decine di guide, bellissime, dove ti spiegano tutto dell'Arena, di Sant'Anastasia, il Duomo, Piazza Bra, eccetera. Però se uno voleva sapere, non so, quanti teatri ci sono a Verona, che stagioni fanno, uno voleva sapere, ma gli impianti sportivi, oltre il Bentegodi che tutti conoscono, ci sono piscine, dove si va, o come passano la domenica i veronesi, oppure cosa mangiano, quali sono i piatti speciali o cosa si beve. In nessuna parte, io trovavo una risposta a queste domande. Allora ho pensato di fare una guida, perché sulla parte artistica ce ne sono di libri a decine, ma per tutto il resto non c'è niente. Allora ho voluto fare un libro dove venisse preso in considerazione venissero presi in considerazione gli aspetti fondamentali della vita. Di che cosa uno si interessa, che cosa fa, come vive, non solo la parte artistica. E per questo la parte artistica, poi vi dirò però come ho cercato di farla in modo originale, l'ho delegata, diciamo, nell'ultimo capitolo. E allora vi voglio brevemente dire, insomma, com'è strutturato questo libro. Nell'introduzione io dico che Capire Amare Bolzano, una città limite di due realtà storicamente e culturalmente diverse, che unisce in una sintesi singolare elementi di così varia natura, richiede un momento di attenzione e di riflessione che non sono facili in un mondo ormai dominato dalla necessità di sintesi sommarie e frettolose. Le guide adesso delle città tendono a diventare sempre più brevi, sempre più sintetiche. L'azienda Soggiorno di Bolzano distribuisce una guida di due paginette dove insomma in quattro righe c'è tutto. E questa no, questa vuole richiede un momento di attenzione e di riflessione diversa. E perciò il testo che qui presentiamo si propone di fare cogliere lo spirito della città e introdurre una conoscenza più approfondita. E questo è soprattutto importante in un momento in cui Bolzano, grazie all'annullamento delle frontiere nazionali e all'allargamento dell'Unione Europea ai paesi dell'Est, ha acquistato consapevolezza del ruolo importante che la città è chiamata a svolgere nell'economia, nella cultura e nel turismo di un'Europa che ha bisogno di vedere moltiplicati i luoghi dell'incontro pacifico delle sue culture e delle sue popolazioni. E questo quindi è lo spirito e il fine del libro, il quale si articola in 21 capitoli, e vi dico brevemente come. Nel primo è una visione generale della città e delle sue caratteristiche nel campo culturale, della musica, delle arti, dello sport, eccetera. Nel secondo capitolo invece ho pensato di inserire la descrizione dei quartieri di Bolzano, perché Bolzano si è sviluppata dal centro storico antico, però ha acquisito mano a mano nel corso di un secolo e mezzo nuovi quartieri che hanno ciascuno una sua fisionomia. E allora ho scritto qui che la struttura urbana della città risulta suddivisa in quattro zone. Il nucleo centrale, che è la parte più antica e architettonicamente rilevante, poi una serie di quartieri sviluppatisi a raggiera dalla fine del secolo scorso sulle principali direttrici stradali che si dipartono dal centro, terzo, una vasta zona industriale e commerciale al margine meridionale oltre il Risarco, che tende a espandersi verso ovest in nuove zone residenziali, commerciali e artigianali. E poi una periferia che è importante per Bolzano, punteggiata di castelli, di masi e di piccoli aggregati rurali, ambiente esterno che si compenetra alla città sia perché offre ad essa la quinta verde dei monti che la circondano, sia per i larghi letti fluviali e per i vigneti che ne interrompono l'abitato creando ampie pause di spazi liberi. E allora qui ho questa descrizione delle caratteristiche strutturali, umane, artistiche dei vari quartieri. Poi seguono tre capitoli in cui io ho pensato di dare delle indicazioni su vari modi di conoscere e di vivere la città, a piedi, in bicicletta e in funivia. A piedi perché a Bolzano ci sono delle passeggiate bellissime che veramente non si trovano. Io in pochissime città d'Europa ho visto questa possibilità in pochi minuti di raggiungere delle passeggiate da cui poi si ha un'ampia visione della città, la passeggiata del Guncina, la passeggiata a Santo Svaldo, la passeggiata a Slago Castelflavon e poi ho aggiunto l'Oltradige perché l'Oltradige, come dice il nome, si tratta di una lunga, amenissima plaga ondulata e qui una larga fascia del territorio non occupata da abitazioni e frutteti è coperta da ben 20 km quadrati di boschi, di latifoglie e conifere che rappresentano un patrimonio ecologico prezioso, una riserva verde a pochi minuti di auto dalla città, con molti sentieri pianeggianti percorribili in ogni stagione dell'anno. E quindi questo è un modo di vivere la città, è un modo che è sempre più ricercato perché zone pedonali si cerca di fare dappertutto, ma questa possibilità di queste passeggiate che sono state create ancora alla fine dell'Ottocento, quando Bolzano si avviava a diventare una città turistica, sono veramente un patrimonio notevolissimo. Nel secondo, l'altro capitolo, il numero 4, è Bolzano in bici. Girare per Bolzano in bicicletta è bello e divertente. La città è in pianura e le distanze sono tutto sommato modeste. Andare in bicicletta è anche un modo di muoversi più rispettoso della natura, economico, non produce scarichi velenosi, non fa rumore, non disturba. E quindi qui ci sono tutte le piste ciclabili, i due circuiti, quello interno, cioè girare in bici all'interno della città e girare fuori per raggiungere. Poi termino con Castelfirmiano, dove si può arrivare in bicicletta, e parlo appunto del Museo della Montagna di Meissner. Poi Bolzano in funivia. E dico perché sarebbe, è bello anche per un turista qualche volta prendere la funivia. Benché nell'ultimo decennio siano state costruite strade carrozzabili che raggiungono le medesime mete, un'escursione in funivia è consigliabile per le sensazioni che ne derivano, per la riscoperta del paesaggio da punti di vista nuovi e suggestivi e per la vista sulla città che ne abbraccia dall'alto il tessuto urbano e le valli che vi confluiscono. E quindi qui c'è poi una descrizione delle funivie e dei luoghi dove arrivano. Adesso vorrei saltare però un attimo all'ultimo capitolo dove tutto sommato ho dovuto, no, ho messo perché non poteva mancare, qua, sono quattro itinerari artistici, però ho cercato di farli in modo diverso, cioè non dire solo Piazza Walter, c'è cioè il monumento a Walter in Duomo, è fatto così, ma spiegare il perché. Che altrimenti non avrebbe avuto senso dire soltanto. E adesso vi voglio leggere alcuni passi per farvi, per dirvi quello che io ho inteso fare. Per esempio, tutti parlano di Piazza Walter, ma chi è sto Walter? Vabbè, un poeta, ma cosa ha fatto? Perché è importante. Allora ho scritto due righe, poche righe che vi voglio leggere, poi poche righe sul Duomo. In modo che uno che viene, che va e vede in centro alla piazza Alberto Walter, piazza Walter, la figura del poeta, ma qual è la sua importanza? Perché ha meritato di essere messo lì? E allora è messo lì perché secondo una tradizione era nato qui, nel Sud Tirolo, poco lontano da Fires, in una zona dove si diceva fosse Vogelweide. In realtà era austriaco. Tra i maggiori poeti della lirica cortese germanica, da lui profondamente rinnovata, nato quasi certamente in Austria da famiglia di piccola nobiltà, visse presso le corti della Germania e partecipò alla vita culturale e politica in un periodo che vide la contrapposizione violenta tra impero e papato. Strenuo sostenitore nelle sue poesie politiche dell'ideale dell'impero, vide in questo il garante dell'ordine e dei valori morali. Solo l'imperatore infatti può salvare il mondo dal caos, che deriva dalla mancanza di pax et justitia. Suo compito è anche quello di respingere le pretese secolari della Chiesa romana, a cui Walter contrappone nelle poesie religiose una Chiesa autentica, pura, intesa alla povertà e all'umiltà, anziché alla ricerca di un potere mondano. Quindi le sue poesie si dividono in poesie politiche, che sarebbero queste, e poi le poesie amorose. Raggiunse i più alti risultati poetici nella lirica amorosa, dove superò la cristallizzazione di temi e forme del Minnesang. Lui vive tra la fine del 1100 e l'inizio del 1200, introducendovi elementi personali e sentimentali, con un realismo che riporta la vicenda amorosa in una dimensione umana, e la arricchisce di notazioni psicologiche, ambientali e paesaggistiche. Walter ebbe un'alta concezione della sua poesia, come profezia, monumento morale e forza educatrice. Con essa egli si rivolge a principi e vescovi perché sappiano distinguere tra bene e male, tra verità e apparenza, ponendosi sempre dalla parte della verità e della giustizia, del vero amore e della donna che lo incarna, dell'uomo la cui misura è costituita dalla virtù interiore. È proprio in questo atteggiamento di forte tensione morale e al tempo stesso di pensosa coscienza, con in mano il liuto, emblema della poesia, è raffigurato il poeta sull'alto basamento affiancato da due leoni portascudo. Ecco, questo sarebbe un piccolo flash per far sapere appunto chi è Walter. Adesso qualche cosa sul Duomo invece, perché il Duomo di Bolzano ha una caratteristica che si chiama quella Hallenkirche. Cosa vuol dire Hallenkirche? È una chiesa in cui le navate laterali hanno la stessa altezza della navata centrale. Perché noi siamo abituati nell'arte romanica e anche nell'arte gotica, per ragioni strutturali, ad avere le navate laterali molto più basse, o senz'altro più basse della navata centrale. Ma questo cosa provoca? Che le colonne, che poi reggono il tetto, sono libere fino all'altezza delle navate laterali, mentre vengono inserite nel muro, nella parte superiore, il muro che chiude la navata centrale. Nella Hallenkirche, invece, essendo le navate laterali della stessa altezza, la colonna è libera. E quindi si vede, se voi entrate nel Duomo di Bolzano, le colonne sono libere. E questo è un fatto molto importante dal punto di vista della struttura dell'arte. Saluto l'assessore, che sapevo che sarebbe venuto perché me l'aveva detto. E allora io dico, qui inserendo sempre nel giro artistico questi flash di carattere di approfondimento, che il Duomo è il più insigne monumento dell'architettura gotica della regione. Sua caratteristica è lo slancio verticale che si realizza nei profili allungati dei contrafforti e delle finestre, nei ripidi spioventi del tetto, nel costante e graduale assottigliarsi verso l'alto del campanile. Con tali elementi strutturali l'arte gotica vuole esprimere la salita dell'anima verso il divino. Anima che aspira a liberarsi da ogni peso della materia per raggiungere un livello di pura spiritualità. Per questo motivo i costruttori tendono a smaterializzare i paramenti murari, sostituendoli con finestre decorate da esili trafori, sostenendo le spinte verticali con sottili archi rampanti e arricchendo il tutto con fragili guglie, balaustrate e pinnacoli. Tutte le linee verticali convergono e si uniscono nella guglia del campanile alta 18 metri, che è come un ricamo dove la materia sembra dissolversi nell'atmosfera. E questo è un esempio di... poi qui ce ne sarebbero tanti altri, ma per esempio una cosa, quando parlo del Monumento della Vittoria, dico questi fasci ci sono, no? Cosa sono questi fasci? I fasci detti littori, perché portati dai littori che erano guardie del corpo dei magistrati romani ed erano il segno del loro potere. Quando questi magistrati, come i pretori e i consoli, gli altri no, potevano comminare la pena di morte, cioè avevano questa facoltà, ai fasci veniva aggiunta la scure. Vedete che nei fasci del mondo c'è la scure. E proprio da questi fasci deriva la parola fascismo. Ecco, questo può essere interessante, così è una notazione. Poi un'ultima cosa soltanto su, per esempio, gli affreschi, perché l'ultimo itinerario è su Castelroncolo. E gli affreschi di Castelroncolo sono una cosa fondamentale in Europa, perché sono un documento della pittura gotica internazionale, la pittura profana, perché voi sapete che fino a Giorgione oggetto della pittura era soltanto la storia sacra. Noi troviamo però in questo periodo dell'arte gotica internazionale che oggetto della pittura è anche la vita, come si svolge. Qui brevemente, sì, ancora 10 minuti poi concludo. Questi affreschi, questo per dire come ho concepito anche questo giro artistico, non soltanto dire che ci sono questi affreschi, eccetera, ma spiegare il perché e la loro importanza, eccetera. Questi affreschi per i soggetti e per la tecnica dell'esecuzione si fanno rientrare in quella fase dell'arte gotica che fu detta internazionale o gotico fiorito. Quest'arte si diffonde in Europa dalla Francia negli ultimi decenni del Trecento. È caratterizzata da un accentuato naturalismo. Ci presenta cioè la natura come luogo di evasione e di svago, di conversazione e di amoreggiamento. Si vedono i cavalieri che danzano, che giocano a palla, che pescano, in tutti questi affreschi, che vanno a caccia. La vita si svolge all'aperto, in giardini fioriti. Ma il castello, simbolo del potere e della vita di corte, è sempre presente sullo sfondo a ricordarcela. Su di essa, sulla vita dei nobili, tende a modellarsi la vita di una borghesia che si va arricchendo grazie allo sviluppo economico e all'aumento dei traffici. Da qui l'attenzione all'abbigliamento, alle pettinature, sono tutte elegantissime le dame, e a tutto ciò che è proprio di una vita elegante. C'è un'armonia interiore che si rispecchia nell'armonia della natura. Le linee allungate dei volti e delle mani e di tutti i particolari descrittivi vogliono proprio esprimere questa musicalità come uno degli elementi principali della cultura del tempo. Il paesaggio è l'ambiente in cui si svolge la vita. Di qui la rappresentazione dei mesi dell'anno, con le attività e i mestieri stagionali. Quei mestieri che avevano già offerto allo scultore medievale i temi per le decorazioni di portali e capitelli nelle cattedrali, il campanile di Giotto sotto tutte quelle fornelle. Tutti questi sono elementi naturali, ma il loro insieme è fantastico nel senso di un'alta carica di idealizzazione che pervade tutte le scene e le rende fantastiche. Poi ci sono però gli affreschi sulle storie di Tristano. E perché questo? La borghesia e la stessa nobiltà soddisfano aspirazioni ad una vita eroica ed esigenze di evasioni sentimentali attraverso la lettura dei poemi cavallereschi, che offrono soggetti inesauribili ai pittori per la decorazione degli ambienti di soggiorno. Le miniature che impreziosivano i codici furono lo strumento principale di diffusione del gotico internazionale. Allora, in una sala a Castelronco lo troviamo. Garello, le storie di Garello, le storie di Tristano, che erano l'illustrazione di questi romanzi che tutta la nobiltà in Europa leggeva. Allora, questa è un'idea di come ho pensato di fare per la parte artistica. Continuando poi invece per quanto riguarda Bolzano, dopo quello che vi ho letto prima, abbiamo Bolzano Porta delle Dolomiti. E dico che quella presenza delle Dolomiti vicina ma nello stesso tempo lontana per la suggestione delle saghe che ad esse si ispirano condiziona più che non si creda la vita dei bolzanini. Vivere a Bolzano vuol dire infatti per i più realizzare un continuo profondo dialogo con la montagna. La montagna è severa, avverte un cartello esposto nei rifugi alpini. Ma essa può essere avvicinata e goduta da tutti se ognuno è cosciente delle proprie capacità e dei limiti oltre i quali sarebbe presuntuoso o avventato spingersi. Capitolo settimo sulla cultura, e questo è un capitolo molto importante, perché qui parlo, non c'era nell'altro volume, l'università, l'Accademia Europea, Zelig, una scuola di tecnica cinematografica, poi il Centro Trevi, che ha una grandissima attività, il Südtiroler Kulturinstitut, che ha anche un'attività molto importante e significativa, poi l'UPAD, il polo bibliotecario che sarà realizzato entro qualche anno, e poi quello che il Comune e la Provincia fanno, che è molto importante. Io dico Comune e Provincia sono assurti a protagonisti della vita culturale della città, sia indirettamente, in quanto finanziano con generosità le molte libere associazioni esistenti sul territorio, sia direttamente, promuovendo una serie di manifestazioni lungo tutto l'arco dell'anno. Io che ho contatti per l'attività di Nuovo Spazio, noi ospitiamo compagnie che provengono da tutte le regioni d'Italia. Io mi vergogno, io non dico mai quello che noi riceviamo, perché se noi possiamo avere questa attività è perché riceviamo i contributi che usiamo, sempre bene, assolutamente, onestamente, però senza i contributi del comune. E devo dire, già che c'è l'assessore qui presente, che noi come nuovo spazio abbiamo deciso di rimanere al teatro di Gries, dove avremo sempre la nostra stagione in abbonamento, cercando di portare a Bolzano il meglio del teatro amatoriale, proprio perché questo teatro continui a vivere, questo teatro che ha una sua storia, che era l'unico teatro di Bolzano prima che noi cercassimo di aprire altri luoghi. Ecco, quindi in nessun'altra città d'Italia, credo, non so dove, l'ente pubblico si impegna tanto nel campo culturale, perché voi vedete poi tutto quello che c'è a Bolzano, che non si sa poi cosa scegliere alla fine. Il capitolo ottavo parla della musica. Anche qua noi parlo del Conservatorio Monteverdi, che è stato, io ho avuto la fortuna di conoscere il maestro Cambissa, il maestro Nordio prima, ero molto amico del maestro Pedrotti, ho seguito fin dalla nascita l'orchestra Haydn, eccetera. Devo dire che quello che c'è a Bolzano, solo la presenza delle orchestre europee, e qui ci sono varie bellissime foto, oltre all'orchestra Haydn, che è l'orchestra stabile, però il fatto che le orchestre europee, la Gustav Mahler e la European Youth Orchestra, abbiano la sede a Bolzano, ci dà la possibilità di sentire dei concerti che sono di livello mondiale, quindi, ma anche poi c'è la musica sacra. Noi tra poche sere potremo ascoltare la Missa Solemnis di Beethoven, con un coro che è qui anche, diciamo, della nostra regione, della nostra provincia. È un avvenimento, è un'opera straordinaria, però il fatto che l'orchestra, con i solisti e il coro siano in grado di realizzare la Missa Solemnis è un fatto eccezionale. Quindi questo capitolo è dedicato alla musica. Capitolo 9, teatri e spettacoli. Anche qui abbiamo il teatro comunale. Abbiamo il Teatro Cristallo adesso, l'Austerkultur, il Teatro Comunale di Gries, poi c'è il Carambolage, e poi ci sono tante attività, c'è la Comune con l'Arte del Fare, Transarte. Dal punto di vista musicale credo che Bolzano non sia seconda a nessun'altra città d'Italia, quindi questo è un aspetto fondamentale. Capitolo 10, ho parlato dell'uomo venuto dal ghiaccio, come una star mediatica. Nessun complesso archeologico aveva mai destato tanto interesse da parte dei mass media quando l'uomo venuto dal ghiaccio. Non appena fu resa nota la clamorosa età della mummia, la sua immagine balzò sulle prime pagine dei maggiori giornali nazionali e esteri. I miei cugini che vivono a Los Angeles mi hanno subito mandato la prima pagina tutta dedicata a Ezzi, da Los Angeles, chiedendomi tutte le spiegazioni, ed erano molto più informati di me sulla freccia, sulla punta, com'era morto, eccetera, eccetera. Questo straordinario reperto si è trasformato in poco tempo in un grande business: canzoni, cartoline, caramelle, pizze e gelati portano il suo nome, mentre la sua figura campeggia su t-shirt ed etichette di vino locale. Giovedì scorso ero per caso lì, dovevo andare al Musara, strapieno, io non so, sempre pieno, cosa formidabile. Capitolo 11, poi si parla dello sport, con tutte le piscine, le piste di ghiaccio e quindi. Capitolo 12, Bolzano per i giovani, perché anche qui io ho notato, per esempio, che adesso la presenza dei giovani a Bolzano si nota, fino a 2 o 3 anni fa non si poteva fare. Se voi andate in giro la sera o passate in piazza Cernesi, è pieno di giovani. Adesso è limitato a 3.000, mentre 2 anni, cioè il tetto massimo di iscrizioni per la LUB, è fissato a 5.000. Contemporaneamente si stanno creando nuovi collegi e possibilità di alloggio per i giovani, quindi quando l'università sarà portata a 5.000, la vita di Bolzano secondo me cambierà moltissimo. Già adesso la sera tanti locali sono pieni, eccetera. E io dico, La città è diventata ora città di soggiorno e studio per molti giovani provenienti da tutto il mondo. Girando per le strade non stupisce più sentire parlare una molteplicità di lingue diverse, non più solo italiano e tedesco, incontrare volti stranieri che però con il loro sorriso dichiarano di sentirsi proprio a loro agio in questa città che ha nel multiculturalismo uno dei suoi valori fondanti. Interrogati spesso da radio e giornali locali sulla loro vita nel capoluogo altoatesino, in molti si dicono entusiasti. In questa città a dimensione d'uomo immersa nella natura trovano un ambiente favorevole per cogliere gli aspetti della vita che più interessano loro, amicizia, sport, cultura, arte, senza condizionamenti e in piena libertà. Però non ho voluto poi trascurare aspetti anche fondamentali, ad esempio il lavoro. Bolzano produce, dove parlo delle principali industrie di Bolzano, cosa si compra, perché uno che viene qua dice ma cosa si compra a Bolzano, incominciando dai piumini, e non so se un giorno il professor Amoroso, che è professore di storia del teatro all'Università di Palermo, l'avevo invitato a Bolzano a fare una conferenza sugli spettacoli di Siracusa, e dopo la conferenza disse guardi che domattina alle 9 c'è la possibilità, il treno per Roma. Ah, dice no, prima di mezzogiorno non posso partire. Dico perché? E dice perché tutti i miei parenti, devo comprare una decina di piumini. Dice tutti i miei parenti di Palermo, dice ah vai a Bolzano, portami un piumino. Ecco, questo è un esempio e qui c'è un capitolo. Naturalmente poi cosa si mangia, perché adesso la gastronomia è molto importante, e allora qui sono andato per 2 mesi a lezione da Agostini a Casercone, ma non Agostini figlio, Agostini padre, che era così gentile che alle 3, quando aveva finito il servizio, mi riceveva lì su un tavolo e mi sono fatto illustrare tante volte tutto quello che mi poteva dire sulla cucina, e frutto di queste sedute è questo capitolo. Poi cosa si beve? Con questo cosa si beve? Sì, parlo di anche Hopfen, perché la birra, chi viene dal sud vuole la birra, chi viene dal nord vuole il vino, e quindi, e questo sono andato da Lageder, a Luis Lageder, il presidente del Museum, che sono andato a Magrelli, insomma, mi sono fatto dare. Poi parlo anche della Kloster Kellerei Muri Gries e spiego perché è così importante la coltivazione del vino a Bolzano, perché nel 1100 nel nord Europa c'erano conventi con centinaia. Se andiamo in Bretagna e vediamo i conventi che ancora ci sono, erano centinaia e centinaia di monaci, e questi tutti, se dicevano la messa, avevano bisogno del vino, perché senza vino la messa non si può dire. E allora cosa facevano? Creavano dei conventi, il convento dell'Agostiniani, che poi fu travolto da una piena, nella piana di Bolzano. E noi abbiamo documenti di tutto questo commercio. Dove, per esempio, insomma, il vino era fondamentale, e ancora oggi i vigneti sono quasi tutti di proprietà ecclesiastica, e il convento di Muri Gries ha una cantina molto importante. Mi avvio alla conclusione. Io ho un capitolo su Bolzano capitale politica ed amministrativa, perché questo è fondamentale. Essendo Bolzano la capitale di una regione autonoma che ha tantissime competenze, ad ogni competenza corrisponde poi la necessità di uffici, cioè non so quante migliaia, 10.000, 12.000 impiegati abbia la provincia. Comunque io qui in un capitoletto spiego tutte queste cose, come sono andate le ultime elezioni comunali e provinciali, eccetera, eccetera, in modo che anche un turista che viene sappia come, dal punto di vista amministrativo, cos'è Bolzano. Il capitolo 18, fiere e manifestazioni, beh, insomma, le principali fiere, che sono sempre molto importanti, perché per adesso c'è quella della zucca, ma per esempio il clima, Casa Clima, questo Bolzano credo che sia leader in Europa nello studio, nella realizzazione di case a basso consumo energetico, oltre che di tantissime cose. Adesso mi pare il 19 novembre viene inaugurato in Cina un grosso impianto sciistico dove noi abbiamo questa ditta Tecnoalpine che produce i cannoni da neve. In Nuova Zelanda hanno realizzato un grosso complesso. Quindi anche dal punto di vista produttivo, diciamo, Bolzano ha una grandissima importanza. Capitolo 19 me l'ha scritto, che non c'è più purtroppo, ma una delle persone più intelligenti che abbia conosciuto, l'architetto Gigi Dalla Bona, che poi mi ha disegnato i monumenti principali dal punto di vista diciamo, architettonico. E l'ultimo, il capitolo di storia, me l'ha scritto Carlo Romeo, che è uno storico, un giovane ma molto bravo, e quindi questo vuol dare un'idea di Bolzano attraverso i secoli. Io ho concluso, questo è il libro, io penso che per persone o per i vostri amici, se avete qualche persona che viene a Bolzano che non conosce la città, io penso che un libro così possa essere un servizio che noi facciamo alla città e allora voglio dire all'assessore che questo è lo spirito con cui, anzi, la ringrazio perché anche il comune, il sindaco, è stato un grande aiuto per il sindaco, me ne ha comprate 200 copie. Vanno via come il pane. Vanno via, sì. Bene, allora Un quando sono bellissimo essa. biglietto da visita. Mi fa piacere Bellissimo biglietto da perché. visita per la città. Ecco, e grazie a tutti voi per la pazienza con cui mi avete ascoltato. Che poi, ecco, sì, ma La è. conoscenza. Perché poi quando si è trattato di stamparlo per il costo, il grafico mi ha detto: se usiamo una carta così leggera, le foto non vengono bene, bisogna usare una carta un po'. Sapete cosa pesa? 850 grammi. Io non lo sapevo, quando l'ho preso mi sono spaventato. E ho detto al grafico: ma cosa pesa? 250? Dico: no, pesa molto di più, l'abbiamo pesato. 850, poi la rilegatura l'abbiamo fatta con questa carta dove non si vedono le impronte delle mani. Insomma, aggiungendo, alla fine è diventata una spesa abbastanza alta. Io capisco che noi lo vendiamo a 25 euro, ma visto che la casa editrice se la tiene il 55%, il 30% le librerie, insomma, alla fine. È così, però insomma è stato meglio fare una cosa bella e così che fare una cosa così un po' modesta. E poi ho spiegato anche questo. Grazie Buonasera. professore. Anche in